got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Parliamo sempre di cucina per parlare dell'identità e dell'Italia che cambia anche attraverso la presenza degli stranieri in Italia, persone che sono arrivate nel nostro paese per lavorare o per studiare o persone che sono in Italia ma hanno radici da qualche altra parte. Sempre più è una tendenza in Italia da questi ultimi 20 anni la presenza di cuochi stranieri che arrivano nel nostro paese per interpretare con rispetto e anche con però creatività e l'apporto delle loro culture la cucina italiana. È una tendenza in atto, appunto, dicevamo, da qualche anno, e uno di questi chef che sta contribuendo a questo rinnovamento della cucina italiana è il nostro ospite di questa sera. Buona serata a Mattias Perdomo. Buonasera, buonasera, grazie di tutto. Grazie Mattias di essere con noi questa sera, è un grande onore avere te come ospite, sei lo chef e anche il fondatore di questo nuovo ristorante Contraste in via Meda 2 a Milano. Un ristorante che è nato da un'idea tua e di altri due soci, ma tu sei famoso anche per aver portato avanti per 14 anni, se non sbaglio, l'osteria al Pont de Fer, un'osteria storica di Milano che però grazie alla tua presenza si è trasformata negli anni e ha ottenuto anche una stella Michelin. Quindi stiamo parlando con uno chef stellato, origini straniere, perché tu sei nato in Uruguay. Sì, allora io sono nato in Argentina, sono nato in Argentina, dopo ho vissuto un po' in Brasile, in Danimarca e sono arrivato a 6 anni in Uruguay. Quindi diciamo non di nascita ma di cultura. Non di nascita, però sono originario dell'Uruguay. Sì. Dell'Uruguay, dove sei cresciuto e dove hai fatto le tue prime esperienze come chef, fra poco ce lo racconterai. Ma prima di tutto, come sempre, noi chiediamo al nostro ospite se ci ha portato un piatto. Sì, sì, sì, sì. Oggi vi ho portato Ricchezza e Povertà, che è un piatto un po' che vuole raccontare un po' la filosofia, diciamo, di questo ristorante e di questa villa dove ci troviamo in via Meda 2. È un piatto, quando abbiamo saputo un po' la storia di questa villa, che c'era Ettore Tavela, che era un dottore che faceva beneficenza e apriva le porte una volta a settimana per curare i poveri e dar da mangiare ai poveri qua. Ci avevamo un po' commosso, ci è piaciuta molto questa idea, volevamo rappresentarla con questo piatto, che era il piatto più tipico milanese, forse che ci sia, che è la cassuola. E questo qua l'abbiamo fatto interpretandolo a modo nostro, un po' volendo giocare, divertirci, ma comunque con un messaggio di fondo. L'abbiamo interpretata con facendo delle finte monete fatte di gelatina di maiale, per cui erano nel fondo del piatto, abbiamo queste monete che sono fatte di gelatina di maiale ricavata della cottura che rilascia il maialino, rilascia questa gelatina, e dopo facciamo proprio la cassuola, filtriamo tutto il brodo, lo riduciamo al punto che ci piace e dopo davanti al cliente versiamo comunque questo brodo, che è il liquido verso il solido, quello che è il freddo verso il caldo, è pieno di contrasti ed è anche un po' la riflessione di quello che per noi può contare comunque il dinero in confronto con la passione, no? Sono un po' di metafore che vogliamo trasmettere con questo piatto e niente, ci piace molto e l'abbiamo voluto portare oggi. Tra l'altro è stato premiato con il piatto dell'anno a Identità Golose Milano qualche giorno fa proprio. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ci fa molto piacere anche questo. dal punto di vista gastronomico dobbiamo studiare tanto quello che è la tradizione italiana, no? Per cui per fare un piatto che si evolge o vogliamo modificarlo o cambiare o trasformarlo o giocare, dobbiamo rispettare sempre il passato, perché senza di quello non possiamo dopo appoggiarsi nel passato per guardare il futuro. Per cui dobbiamo andare a studiare la tradizione e con quegli spunti, con quelle diciamo verità e con quelle genuinità che c'erano all'epoca, cerchiamo dalla ricetta vera e originale trasformarla in un modo che dopo ci trasporta ai giorni d'oggi, no? Cercando sempre di coinvolgere soprattutto in questa nuova versione che stiamo portando avanti, che contraste, coinvolgere molto la sala, perché come ben dicevi prima siamo in tre, in cucina sono con Simone, in sala c'è Thomas, che quello che vogliamo è trovare un equilibrio comunque dove l'ospite è la persona più importante e noi ci mettiamo a disposizione per qualunque cosa possiamo fare con il nostro sistema di ristorazione, no? Dove è molto partecipe la sala in questo caso, per cui il fatto di trasformare il cibo, di darle un'apparenza diversa o tutto quanto ci fa divertire molto a noi, ma vogliamo anche coinvolgere l'ospite. In cucina siete due stranieri, e in che maniera essere stranieri vi aiuta a rivisitare anche la cucina italiana? Aiuta e no, c'è il pro e il contro, no? Senza ombra di dubbio non abbiamo, come dicevo prima, andare a riprendere una ricetta che è tradizionale, a noi ci comporta molto studio, no? Andare a assaggiarla alla fonte tante volte e capire bene del perché lo facevano in quel modo, no? Perché c'è un perché a tutto, cioè questa è la cosa che più ci interessa, perché un risotto alla milanese si mettevano 40-50 grammi di midollo all'interno, perché lo zafferano se a Milano non c'era, insomma ti fai molte domande dove arrivi alla conclusione. E lì entra la parte dell'essere straniero e vederla comunque con una libertà di poter comunque non avere il peso della tradizione in quel caso, no? Mattias, è sempre di più una tendenza quella di avere in Italia degli chef che arrivano da altri paesi. È una cosa che anche lei ha notato, anche tu hai notato? Ma allora, la tendenza è globale, no? Si sposta molto più facile di 20 anni fa, senza ombra di dubbio. Io credo, ripeto, che la cucina italiana è la migliore al mondo, secondo me. Che oggi ci siano tanti stranieri che vogliono venire qua è il fatto che dimostra che comunque la cucina italiana è la più voluta al mondo. Qualunque ristorante ci sia italiano al mondo è pieno ed è pieno di gente che vuole passarla bene e stare bene al tavolo. Per cui questo secondo me potrebbe essere una delle cose. La seconda, senza ombra di dubbio, è il fatto che oggi la facilità di viaggiare, io mi ricordo quando sono venuto 15 anni fa, era il viaggio della vita, e dopo 10 anni adesso vedo comunque colleghi che viaggiano anche 200 volte all'anno e diventa una cosa semplicissima andare da una parte all'altra del mondo, è cambiato molto anche il modo di viaggiare. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo a parlare con lo chef Mattias Perdomo proprio delle sue, del suo inizio, dell'esordio come chef e di come è arrivato in Italia. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. desapareció. En mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renace. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con uno chef di origini dell'Uruguay. Stiamo parlando con Mattias Perdomo. Che ci stavi raccontando, Mattias, del tuo arrivo in Italia ormai parecchi anni fa, no? Ma tu hai iniziato molto giovane a cucinare. Quanti anni avevi in Uruguay quando per la prima volta hai iniziato a spadellare? Allora, io ho iniziato, il primo lavoro che ho avuto era 14 anni, la falegnameria del mio zio, dove lì, diciamo, è stata il primo approccio con la materia, cioè toccare proprio la materia e la trasformazione del legno, diciamo, al giocattolo. Da lì mi sono reso conto che comunque mi piacevano dei lavori che erano di manualità e di trasformazione, cioè questa è una cosa che e a 16 anni ho iniziato a lavorare in cucina. Per cui, diciamo, sono stato un anno con mio zio, a 16 anni ho iniziato a lavorare in cucina e a 18 avevo in mano, diciamo, questo ristorante. Era troppo presto, è stata una delle scelte perché venire in Italia. A 18 avevo in mano un ristorante italiano dove si faceva solo esclusivamente pasta e nel giro di 2 anni si avevano aperto altri 3 ristoranti dove dovevo gestire io le brigate della cucina, per cui... Tra l'altro eri anche una star del piccolo schermo, cioè apparivi in televisione, spiegavi le ricette in televisione. Sì, è vero, anche questo. Sì, infatti adesso non lo condivido molto, però... Sì, stavo all'epoca... per dirti, lo dici con un po' di reticenza, come se questo fatto dello chef stellato che va in televisione non piacesse molto. No, parlo per me, è stata una delle cose che mi sono... c'è stata una delle lezioni che ho fatto in base a questo. Avevo creato, diciamo, un personaggio intorno a me che non mi apparteneva. Allora, una delle cose che più cercavo era quella di ricominciare da zero in un posto dove avesse tutto nuovo da imparare. Vabbè, sono qua ancora. Insomma, avevi 20 anni, avevi già la gestione di 3 ristoranti, una certa notorietà data dalla televisione e hai deciso di ricominciare da capo venendo in Italia. Sì. Diciamo che comunque mi è stata data questa opportunità e... Di là dell'Italia volevo andare in Francia, dopo ho trovato l'Italia, mi ha chiamato un mio amico che lavorava appunto al Pont de Fer e lì sono arrivato direttamente da un ristorante all'altro e ho fatto tutto il mio percorso lì. All'inizio come secondo, no? Sì, a Pont de Fer. Per 5 anni come secondo, dove ho imparato molto tutte le basi, dove comunque era tutto nuovo, era tutto... cioè, da cominciare da zero proprio, perché noi comunque come base in Uruguay e in Argentina c'è molta cucina italiana, molta cucina comunque spagnola, però è una cucina che è stata modificata dal territorio, dalle materie prime, dal clima stesso, no? Per cui comunque è una cucina italiana che ha sofferto, ha cambiato per questioni climatiche e tutto quanto, ha una cucina diversa e io non sapevo niente della vera cucina italiana. Il Ponte, diciamo, comunque è un ristorante che ha una storia, aperto dall'86, per cui quando quando sono arrivato c'era comunque già una bella fetta di storia ed era comunque un ristorante già rinomato nel mondo gastronomico, soprattutto per quello che faceva la Maida nella ricerca di vini e tutto quanto. Io quando sono arrivato là ho iniziato a fare un percorso insieme a questo chef uruguayano Juan, e diciamo che piano piano lì si sono evolute un po' le cose, e dopo 5 anni ho avuto l'opportunità di prendere in mano io la cucina, e lì abbiamo iniziato a cambiare un po' la parte gastronomica dal punto di vista di iniziare a mettere dei piatti un po' che mi piacevano un po' più a me. Ecco, insomma, raccontaci uno o due di questi piatti. Io ho letto di questa cipolla rossa di Tropea caramellata. Quali sono i piatti che hanno caratterizzato quella stagione tua? Diciamo dei piatti che hanno fatto un percorso di là, sono senza ombra di dubbio la cipolla. È stata uno dei piatti che era nato comunque di un viaggio nel sud della Francia, ci aveva tornato con questa voglia di reinterpretarla, e niente, ci siamo messi con Simon a provare lo zucchero soffiato, ci avevamo messo un bel 3 anni ad impararlo bene, perché all'epoca non c'era nessuno che lo facesse qua. Noi avevamo comunque visto solo in Spagna che lo stavano adoperando, e abbiamo iniziato a provarlo ed è nata questa cipolla che è diventata, diciamo, un po' l'icona del ristorante, un po' il piatto, diciamo, di battaglia, insomma, il più bastonato di tutti. Come vedi questa grande ascesa della cucina dell'America del Sud, no? Il Perù va molto di moda, ma anche il Cile, la Colombia. Sì, diciamo che legata anche al fatto degli ultimi 10 anni, che questa facilità di viaggiare, di fare degli stage e tutto quanto nel mondo ha fatto che tutta questa nuova generazione di cuochi sudamericani, latinoamericani, abbiano avuto l'opportunità comunque di confrontarsi e di vivere le cucine dal vivo, no? Italia, Spagna, Francia. Dopo, certo, sono tornati agli origini e lì hanno una verginità nella materia prima che è incredibile, per cui portando a loro, diciamo, quello che loro sono le ricette tradizionali, magari evolgendole con le nuove tecniche e tecnologie che trovano oggi a disposizione, c'è un grande apprezzamento, no? E dopo bisogna anche dire che il mondo è rimasto molto più piccolo, per cui 10 anni fa era il Giappone, no? La scoperta dell'orientale, ma soprattutto il nipponico, il Giappone. Adesso va l'America del Sud, l'America Latina, con tutti i suoi prodotti che sono infiniti e dei grandi chef che stanno facendo un lavoro immenso, ma se continuerà ad spostare, no? Perché comunque è naturale che dopo un po', cioè, diventa comunque la ricerca del nuovo è fondamentale nella cucina per non rimanere mai fermo. Qual è il complimento che ti farebbe più piacere? Il mangiare è un veicolo per far stare bene la gente, no? E quello che noi stiamo cercando qua è proprio di ascoltare l'ospite e farlo passare per 2 ore un momento felice, che stia bene. Questo lavoro è per far stare bene gli altri, no? Che noi stiamo bene se le persone che ci vengono a trovare passano un momento felice. Quello è il nostro scopo maggiore, per cui troviamo o cerchiamo l'equilibrio in tutto quello che possiamo, che sia la sala, che sia il ricevimento, che sia il vino, il mangiare, per farli stare semplicemente bene. Cioè, questo è il nostro scopo. E qual è invece il piatto, il tuo piatto, magari dell'infanzia, il piatto del passato, che ti è più caro perché magari non riesci a ritrovare qui per gli ingredienti o anche semplicemente perché fa parte del passato? Wow, è è da 3-4 anni che sto cercando comunque un taglio di carne che si mangia molto in Uruguay soprattutto, perché dopo c'è la lotta sempre fra Uruguay e Argentina, ma in Uruguay soprattutto si mangia questo pezzo di carne che si chiama matambre, ed è una ricetta tipica dell'inverno che fanno quasi un po' classica, diciamo, degli uruguayani che fanno le famiglie. Ed è questo taglio di punta di vitello, ma è un pezzettino solo che si taglia, e qua non riesco a trovare il macellaio che riusciamo a capirci, perché a volte è fibroso, a volte no, e questo sto facendo fatica a riproporlo qua, però quello è un piatto, diciamo, che mi ricorda l'infanzia. C'è una parte di te che vorrebbe tornare in Uruguay, e per fare cosa? Per aprire un ristorante, per magari portare lì l'Italia, un pezzo d'Italia diverso dalla pasta magari? No, cioè, la parte di me che vuole tornare in Uruguay c'è sempre, comunque io sono uruguayano e mi piacerebbe molto riuscire a tirare un lazzo, una corda che riusciamo a lavorare con dei ragazzi uruguayani che vogliono venire a fare uno stage e dopo tornare a un paese che è ancora molto vergine dal punto di vista gastronomico, no? Noi pensa che abbiamo il mare, abbiamo tante terre da coltivare, e l'unica cosa che si mangia in Uruguay è la carne, no? Nel senso, se si toglie la carne è come non aver mangiato, e questo è una cosa che mi piacerebbe molto riuscire prima o poi a collaborare o a fare qualcosa in merito a questo, per poter comunque riuscire a far vedere ai ragazzi, come ho avuto io l'opportunità, che il mangiare può essere infinito e che si possono fare un milione di cose con le risorse che abbiamo giù in Uruguay, no? Però è vero che io sono un po' qua, un po' là, nel senso, la mia vita è un po' in tutti e due mondi adesso. Che impressione hai di come viene percepito l'Uruguay in Italia? Sappiamo qualcosa di questo paese? In realtà mi sembra molto poco. A parte il calcio, sì, no. A parte il calcio, poco. Sì, diciamo che comunque l'Uruguay è molto piccolo, non ci offendiamo noi, siamo in pochi, per cui... Però, no... Viene un po' confuso forse con l'Argentina, cioè, perché sembra quasi un paesino dell'Argentina, però piano piano, diciamo che si sta... È anche una questione culturale, chi ha interesse di saperne di più dell'Uruguay, cioè, è lì e si conosce, al di là del calcio, insomma. Però diciamo, trovo un po' di tutto, gente che comunque ne conosce tanto, ne conosce anche dei poeti, scrittori, cantautori, delle storie, delle aneddote dell'Uruguay, anche perché, come dicevo prima, ci sono tante comunque famiglie che sono proprio di origine, hanno familiari in Argentina e in Uruguay anche, no? Certo. Per cui, cioè, soprattutto i piemontesi, i genovesi, insomma, dove c'erano dei porti di partenza, arrivavano tanto nel Rio della Plata, che era l'Uruguay, l'Argentina. Grazie a Mattias Perdomo del ristorante Contraste a Milano per essere stato con noi questa sera. Buona serata. Grazie mille a voi, arrivederci. Grazie anche a Filippo Aureggi in regia, soprattutto a tutti voi per l'ascolto. A sabato prossimo, da Valentina Furlanetto, buona serata, ciao. You've got to give a little, that's the glory of life.